Essere e benessere. Di Nicoletta Carbone. Comincia dal principio, forza. C'era una volta un paese. Una volta un paese. Un paese molto felice. Felice. Era un posto veramente meraviglioso, con tante cose belle da guardare. C'era anche un uomo che diceva tutte le notizie alla gente, e le notizie erano sempre belle. Ehi, gente di questo paese, vecchi, donne e ragazzi, aprite bene le orecchie, ridete e fate lazzi. Potete stare allegri in questa città. Venite tutti a vedere quali sono le notizie, che sono belle, che sono belle, che sono belle. Capita a tutti di ricevere una buona notizia, inaspettata. Bene, oggi tocca a voi. A grande richiesta torna Mangia con me, il reality di Radio 24 per imparare a stare bene mangiando meglio. Noi siamo pronti, prontissimi ai blocchi di partenza. Il dottor Filippo Ongaro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, Nicoletta. Beh, in effetti più che essere ai blocchi di partenza siamo ai fornelli di partenza, nella convinzione che è davvero possibile coniugare salute e piacere imparando a mangiare magari in modo un po' diverso da quello che conosciamo, ma senza troppe rinunce, invece con tantissimi benefici. Saluto anche naturalmente la nostra dottoressa Paola Reverso, che è pronta a suggerire nuovi menù per i nostri prossimi partecipanti, a farci scoprire virtù note, meno note dei prodotti di stagione. Ci insegnerà e ci dimostrerà che si può stare bene mangiando meglio. Buongiorno dottoressa Reverso, bentornata. Buongiorno Nicoletta, grazie, buongiorno a tutti e speriamo di farvi anche un po' rilassare ai fornelli. Abbiamo cucinato senza perdere troppo tempo in cucina, con un occhio sempre attento alla qualità e al portafoglio, dottoressa Reverso, e continueremo a farlo con i suoi consigli. Certamente, perché si può mangiare bene, mangiare sano, cercando anche di economizzare. Del resto poi dobbiamo consumare di più materie vegetali, sappiamo che cereali integrali, legumi, la verdura e la frutta costa un po' di più, però cereali integrali e legumi non costano poi tanto. Il pesce, se si fanno scelte del nostro mar Mediterraneo, si può risparmiare anche lì. Dottor Ongaro. No, io credo che sia l'esperienza anche dell'edizione passata e l'esperienza, insomma, sia mia che della dottoressa Reverso con i nostri pazienti, a dimostrarci come sia assolutamente possibile cambiare abitudini alimentari, e devo dire ottenendo dei benefici che sono veramente a 360 gradi. Quindi ricordiamoci sempre che il cibo è la vita, quindi dal cibo, dal cambiamento alimentare ci si può veramente ricostruire un'esistenza più sana e più felice, quindi lo possiamo fare tutti. Mangia con me, quindi un'occasione per prendersi cura di sé, per volersi più bene, per mantenere, per recuperare benessere, per cambiare e per scoprire, cari amici, che spesso bastano piccoli cambiamenti per raggiungere grandi risultati. L'importante però è iniziare, o ancora prima, accarezzare l'idea di farlo. Vi serve una mano? Bene, io ve ne do due, perché in linea con noi abbiamo Claudio Belotti, il nostro coach, uno degli esperti preferiti e più cliccati del Daily Lab, che è l'appuntamento quotidiano con il benessere di essere benessere. Claudio Belotti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, innanzitutto dobbiamo ricordarci che i piccoli cambiamenti danno grandi risultati, come i grandi cambiamenti. Perché molte persone tendono a rimandare il cambiamento, soprattutto nell'alimentazione, che è una cosa che ci dà tanto piacere? Perché si pongono sempre delle grandi cose che sono difficili da conquistare. Invece incominciamo dalle piccole cose. E soprattutto, invece di pensare alle rinunce che dobbiamo fare, pensiamo ai vantaggi che avremo. Le diete o i cambiamenti delle abitudini alimentari non incominciano mai, perché noi pensiamo a quello che ci togliamo. E invece, come in tutte le cose, dobbiamo pensare a quello che ci diamo: salute, benessere, energia. Immaginiamoci, facciamoci proprio un'immagine mentale di come staremo bene. Ci vediamo belli, sani e soprattutto ci sentiamo. C'è un mio collega americano, un coach che è esperto proprio nell'aiutare le persone a cambiare la nutrizione, che dice: niente è così buono nella mia bocca come la sensazione di star bene perché sto mangiando bene. Quindi invece di pensare al premio a breve termine, che è la cosa che magari ci piace da mangiare ma però non ci fa bene, pensiamo al premio a lungo termine dello star bene, proprio perché abbiamo scelto invece di aver rinunciato. Grazie a Claudio Belotti. Noi tra l'altro seguiremo, dottor Ongaro, dottoressa Reverso, i nostri prossimi partecipanti per 8 settimane. Questo è il tempo del cambiamento, dottor Ongaro? Ma diciamo che 8 settimane sono il tempo per avviare un cambiamento che poi deve durare il resto dei nostri giorni, no? Noi siamo sempre stati, non voglio dire sfavorevoli alle diete, ma insomma ci teniamo a sottolineare che il cambiamento alimentare è un cambiamento per sempre, vuol dire impossessarsi di una nuova cultura dell'alimentazione, una nuova cultura del benessere, e quindi le 8 settimane sono quelle necessarie per avviare in maniera compiuta questo cambiamento, ma poi deve continuare. Girando sempre su se stessi, vedendo e facendo sempre le stesse cose, si perde l'abitudine e la possibilità di esercitare la propria intelligenza. Lentamente tutto si chiude, si indurisce e si atrofizza come un muscolo. Albert Camus, romanziere, filosofo e drammaturgo francese. E a proposito di muscoli, sentiamo come stanno quelli di Giantonio, il nostro terzo partecipante della prima edizione di Mangia con me, se non vi ricordate di lui. Vi rinfresco la memoria e poi vi invito ad andare sulla pagina di Mangia con me sul nostro sito per vederlo proprio di persona. Giantonio, 35 anni, fidanzato, vive a Padova e fa il tecnico di laboratorio. Dicono di lui che è simpatico, cordiale, equilibrato. In casa è il re dei fornelli. Sono vegetariano da 15 anni, quindi ho imparato a cucinare cose particolari. Mi piacciono molto anche piatti un po' esotici, cereali vari, burgul, farro, eccetera. Il piatto che mi viene meglio potrebbe essere il pasticcio di verdure, ad esempio, oppure il risotto col radicchio. Per la mia fidanzata cucino spesso il risotto col radicchio e lo accompagno sovente con delle torte salate. È amico di Morfeo, dorme tra le 6 e le 8 ore, affronta i cambiamenti con entusiasmo, ma vacilla solo di fronte a pizza, focaccia e pane, ai quali non rinuncia mai. Sì, sicuramente con Morfeo ho stretto una sincera amicizia, al mattino è sempre difficile alzarmi dal letto e i miei gusti preferiti ovviamente sono la pizza alle verdure. Cresce con la passione dello sport, fa suo il detto di De Coubertin, l'importante è partecipare, e a livello amatoriale non si fa mancare proprio nulla. Quando ero piccolo ho fatto molti sport, dal karate, ping pong, al ciclismo, corsa, tennis e anche il nuoto, perché mi hanno costretto a imparare, avevo molta paura dell'acqua. Poi quando sono andato all'università ho un po' smesso e dopo ho ripreso con un po' di difficoltà. Negli ultimi anni ho ricominciato a fare sport, principalmente ciclismo e corsa durante l'estate e nuoto durante l'inverno. Il mio sogno sarebbe di riuscire a correre almeno una mezza maratona nel giro dei prossimi 2-3 anni. Ci vuole un fisico bestiale. Se il fisico c'è, mancano però i risultati. Ho la fortuna di condividere la passione per il ciclismo con un mio caro amico, però l'anno scorso a fine stagione mi sono accorto che a parità di chilometri percorsi, nonostante lui non abbia propriamente un fisico asciutto, riusciva in salita ad andare più forte di me, e questo è inspiegabile. I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling to this unfriendly world. I'm rolling through this unfriendly world. Giantonio, eccoti, bentornato. Grazie, ciao Nicoletta, ciao a tutti. Ciao, che piacere, sono passati quasi 5 mesi, il fisico c'era, sono arrivati anche i risultati? Sì, allora, beh, ho continuato a praticare sport, perché adesso che ho ricominciato con l'assiduità, insomma, non voglio più smettere. E ho fatto molto meno bici quest'anno perché ho avuto poco tempo, molti più impegni lavorativi, eccetera, quindi ho fatto fatica, però sono andato più spesso a correre, perché andando a correre riesco a concentrare in minore tempo, diciamo. Quanto ti ha aiutato nell'ottenere risultati il Mangia con me? Eh beh, abbastanza, abbastanza. Come avete ricordato, a me piace molto cucinare, e Mangia con me mi ha insegnato ad usare degli ingredienti nuovi che poi ho integrato nel mio modo di essere, nel mio modo di vivere, e sono stato molto contento di questo. Le scoperte più piacevoli? Guarda, ho iniziato a usare cereali nuovi, per esempio il riso nero, non lo conoscevo, altri tipi di riso, oppure anche i semi di lino, ecco. Che... I famosi semi di lino della dottoressa Reverso. Esatto, esatto. Che... È diventata la dottoressa dei semi di lino. No, li mangio molto spesso a colazione con i cereali, eccetera. Quindi sono state delle piacevoli scoperte. Senti, ma è una cosa invece suggerita dal dottor Ungaro e della dottoressa Reverso che proprio non ti è andata giù? Beh, no, adesso cosa mi puoi dire? No, per esempio, loro. Certo, scusa, sarà mica tutto, no? Tutto no, buono. No. Sono, ecco, ho fatto fatica ad alzarmi la mattina, faccio sempre fatica, però quindi li ho, posso dire, maledetti qualche mattina, però sono contento che siano riusciti a convincermi a farlo. Allora vediamoli, due maledetti, il dottor Ungaro e la dottoressa Reverso, che naturalmente hanno sentito la nostra chiacchierata. Dottor Ungaro, è stato bravo? Ma direi che è stato bravo, partiva diciamo anche da un punto buono, no? Nel senso che era una persona comunque già avviata in un certo senso ad un buon livello di conoscenza dell'alimentazione. Mi piacerebbe, Gian Antonio, capire in termini di energia se ci sono stati dei cambiamenti, cioè al di là della prestazione sportiva, se proprio a livello di energia quotidiana, di resistenza alla fatica anche lavorativa, di come arriva alla fine della giornata, se ha sentito una sensazione diversa, visto che la fatica, Nicoletta, è uno dei sintomi di cui le persone sono maggiormente vittime, no? L'abbiamo visto anche dai tanti questionari che abbiamo analizzato. Certo, scusa Giantonio, ti interrompo un attimo perché vorrei poi chiedere al dottor Ungaro come capire che la fatica che noi avvertiamo è proprio generata da un'alimentazione squilibrata o ha una distribuzione scorretta dei vari tipi di alimenti. Ma allora, non c'è una risposta univoca a questo, però diciamo che quando la fatica ci coglie diciamo in maniera concentrata dopo i pasti, è un segno che c'è qualcosa che nell'alimentazione non va, cioè il pasto dovrebbe essere ricaricante, energizzante, invece per molte persone è esattamente il contrario, è un paradosso, cioè questa sonnolenza e questa stanchezza dopo il pasto significa che stiamo mangiando qualcosa che non è adatto a noi. Allo stesso modo, se arriviamo troppo stanchi alla fine della giornata, vuol dire che non abbiamo incamerato sufficienti quantità di energia, forse non abbiamo bevuto sufficienti quantità di liquidi e quindi l'organismo arriva veramente agli sgoccioli delle proprie riserve alla fine della giornata. Giantonio, credo che queste indicazioni del dottor Ungaro ti siano utili per rispondere alla sua domanda. L'energia è arrivata? Subito, sì, secondo me sì, perché comunque dopo pranzo non ho di solito sonnolenza, cerco di bere molto durante la giornata e alla sera, nonostante abbia una vita lavorativa abbastanza intensa, riesco comunque ad andare a correre la mezz'oretta, insomma, i tre quarti d'ora. Perciò io non sento molto la fatica da questo punto di vista, penso di aver capito cosa intendo. Quindi hai cambiato, la fidanzata è rimasta la stessa però. No, la fidanzata è rimasta la stessa, ovvio, non potrei mai cambiarla. Dottoressa Reverso, il nostro Giantonio ha scoperto grazie a lei i semi di lino, ad esempio, alcuni cereali integrali. Che cosa dovrebbe aggiungere? Quale altra scoperta regaliamo a Giantonio? Possiamo farvi conoscere tanti altri tipi di riso, per esempio c'è il riso thailandese integrale, che è un riso che cuoce in 20 minuti, quindi se meno di 20 minuti, mentre il riso integrale di solito ci mette un'ora, quindi se abbiamo poco tempo può essere utile. Oltre ai semi di lino si può parlare anche di altri semi oleaginosi come i semi di girasoli, i semi di zucca, i semi di sesamo, ci sono anche i semi di sesamo nero, oltre a sesamo bianco, che come sapore non c'è una grande differenza, però appagano molto l'occhio perché sono molto coreografici, poi scrocchiano, quindi a volte magari quando mangiamo l'insalata, che a volte ci appare triste, allora tendiamo ad abbondare nel condimento, ma soprattutto nel sale. Sapete che io non sono amica del sale. E i semi di sesamo danno quel tocco che ci fanno dimenticare di aggiungere il sale. E proprio per coltivare e aumentare le prestazioni, chi mangia con me si allena con lui. Il nostro esperto, che si occuperà della forma fisica dei nostri prossimi partecipanti, ma naturalmente si occuperà, se lui lo desidererà, anche di Giantonio, è il professor Stefano Tirelli, dottor in scienze motorie dello sport, docente all'Università Cattolica di Milano e preparatore atletico di fama internazionale. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Professore, mangia con me e scopri l'atleta che c'è in te. Che dice, le piace? Noi ne abbiamo già uno di atleta, che è il nostro concorrente della prima edizione di Mangia con me, che è in linea con noi. Ma lei riuscirà a tirare fuori l'atleta dei nostri prossimi partecipanti e come farà? Ma io lo spero, anzi tra l'altro ne sono quasi sicuro, nel senso che conto moltissimo su quella che è la motivazione degli ascoltatori e dei vostri affezionati. Senz'altro Giantonio per esempio lo è già, è una persona motivata che ha voglia di innovarsi e questo è il termine che io credo sia importante porre all'interno di un contesto anche di preparazione atletica, cioè dimenticare un pochino quella che è la vecchia preparazione atletica e riscoprire invece anzi una nuova metodologia che comprende sia la parte fisica di allenamento che è la corsa aerobica piuttosto che l'utilizzo di pesi, di carichi naturali, ma anche quello che è l'aspetto energetico, proprio l'implementazione delle nostre energie attraverso stimolazioni che si possono fare anche da sé su quelli che sono i punti dell'agopuntura senza utilizzare l'ago ma utilizzando per esempio delle digitopressioni. Questa è una nuova metodologia che porta incremento a livello muscolare, a livello di forza e anche di resistenza. Quindi i nostri prossimi partecipanti potranno approfittare anche di questa forma di allenamento. Giantonio, tu ti sei già allenato, ci hai già seguito, ma naturalmente non abbandonarci. No, assolutamente. Anzi, ringrazio la dottoressa Reverso per tutti i consigli che mi ha dato in questo momento. E devo riascoltarvi in podcast perché non sono riuscito a scrivere tutto, quindi non vi abbandono. Bravo, bravissimo. Infatti io dico sempre ai nostri ascoltatori, seguiteci, scaricateci, siamo su Facebook e su Twitter. Giantonio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E complimenti. Saluta la tua fidanzata. Grazie, grazie. Adesso noi ci fermiamo perché tra poco il professor Tirelli ci racconterà che cosa troverete sulle pagine anche di Mangia con me, come vi potrà seguire e quali miglioramenti potete aspettarvi, naturalmente combinando l'attività fisica con la corretta e giusta alimentazione, un'alimentazione che parla ai nostri geni, come insegna il dottor Ongaro, la nutrigenomica. Essere e benessere. Noi siamo tornati oggi una puntata in cui vogliamo invitarvi a una nuova edizione di Mangia con me. Un'edizione a cui partecipa anche un nuovo coach, un nuovo allenatore, un allenatore con i fiocchi, perché accanto a un nuovo stile alimentare noi vorremmo proporvi anche un nuovo stile di allenamento. In linea con noi abbiamo il professor Tirelli che ci racconterà quale attività fisica cucirà su di noi. Sì, l'attività fisica che proporrò sarà un'attività che verrà appunto cucita sulle persone ad hoc, cercando di migliorare quella che è la loro motivazione innanzitutto, di implementarla, di potenziarla, perché sia sull'aspetto fisico che l'aspetto mentale si può lavorare. I due concetti sono tra loro correlati e poi in più cercheremo di dare dei segreti, di offrire dei piccoli segreti su quelli che sono dei punti che io chiamo con i miei atleti un po' dei punti magici, punti del nostro organismo che se stimolati aiutano ad aumentare ancor più il livello di forza. Sono quindi punti derivanti da culture antiche come quella dell'agopuntura cinese senza toccare però aghi o quant'altro. Ed è importantissimo però ricordarsi che quello che si potrà offrire è tutto ciò che nello sport piace. Io non voglio assolutamente vedere o sentire persone che compiono, che fanno sport, ma che lo fanno per forza. Lo sport è una cosa bellissima se fatta perché la si vuol fare. E io so che i radioascoltatori di Radio 24 sono quelle persone che amano fare lo sport e che desiderano quindi trarne il miglior vantaggio possibile. Allora, se avete voglia, se volete accettare la sfida o un cambiamento, potete partecipare a Mangia con me, andate sul sito www.radio24.it. Compilate il questionario. Tra l'altro è già un primo passo molto semplice, dottor Ongaro, ma che ci aiuta a pensare anche al nostro stile alimentare. Ma guarda Nicoletta, il lavorare alla compilazione di un questionario, per quanto semplice e rapido possa essere, è davvero uno stimolo a fare delle riflessioni sulla nostra vita quotidiana, sullo stile di vita che adottiamo. Quindi già il questionario fa parte di un percorso terapeutico, quindi compilarlo ti permette di concentrarti su alcune cose su cui normalmente non ci soffermiamo. Allora, voi compilate il questionario, potreste essere selezionati dai nostri esperti che cuciranno su di voi un nuovo stile alimentare, un nuovo modo di percepire un po' il vostro corpo, ritrovare l'energia, tutto con all'insegna della semplicità e della piacevolezza. Grazie al professor Tirelli, che ritroveremo con noi il prossimo giovedì con il primo partecipante. Grazie professore. Grazie a voi, a presto. Dottor Ungaro, Mangia con me, possiamo dirlo che è una sorta di filosofia di vita? Non possiamo, dobbiamo dirlo, perché è assolutamente vero, cioè lo sforzo che stiamo facendo, non siamo solo noi per fortuna, cioè il gruppo si sta allargando, non solo il nostro gruppo intendo, ma veramente questo nuovo approccio alla salute, ed è assolutamente una filosofia di vita, ecco perché vogliamo anche incorporare degli altri elementi che non sono necessariamente soltanto dietetici, ma sono parte di culture differenti e anche altri temi come quello dell'esercizio fisico, quindi è una filosofia di vita importante, ci sono sempre più studi che ci mostrano come l'alimentazione influisca su tantissimi aspetti della nostra vita. L'umore, la creatività. L'umore, la creatività, insomma ancora una volta il cibo è la nostra vita, dobbiamo imparare ad utilizzarlo a nostro favore. Senza dimenticare che i geni faranno festa. Sì, anche perché appunto il nuovo tema, poi il nuovo ambito di ricerca, che è sicuramente quello più interessante in questo momento, è quello della nutrigenomica, che è questo ramo della scienza della nutrizione che studia gli effetti molecolari del cibo, cioè che cosa succede quando il cibo entra nelle nostre cellule e accende o spegne i nostri geni. Quindi non è solo una questione di calorie, non è solo una questione di entrate e di uscite, ma è veramente una questione di scienza molto, come si può dire, approfondita, che va a studiare proprio gli effetti che gli alimenti hanno sulle cellule, addirittura sulla funzionalità del nostro DNA, quindi sul mantenimento di un'età biologica che sia il più bassa possibile rispetto all'età invece anagrafica. Quindi la nutrigenomica aggiunge vita agli anni. Sì, è certamente la base per qualsiasi tipo di approccio, chiamiamolo anti-aging, preventivo, che rallenta l'invecchiamento. Parte dalla nutrizione, la nutrizione ne è il pilastro centrale, assolutamente. A tavola non si invecchia, dice un vecchio proverbio, e noi possiamo dire mangia con me e si rimane giovani. Sicuramente possiamo dirlo e possiamo provare a proporre anche in questa edizione delle soluzioni che siano pratiche e facili, ma di grande impatto sulla nostra salute. E a proposito di età e giovane, è stato il nostro primo e più giovane partecipante. In linea con noi abbiamo Davide. Ve lo ricordate? Vi rinfresco la memoria. Davide ha 24 anni, vive a Livorno, si sta laureando in lettere. Ama leggere libri di letteratura classica e romanzi storici, tifoso della Roma e di Capitan Totti. Il suo cantante preferito è Francesco Guccini, ma confessa di avere anche un debole per sua nonna, fantastica cuoca, che gli ha trasmesso il piacere della buona tavola. Infatti Davide è una buona forchetta. A pranzo mangio sempre un'abbondante pasta fatta dalla mamma o peggio ancora dalla nonna, peggio non per qualità ma probabilmente per calorie, un abbondante contorno e spesso il secondo. Carne rossa, un uovo, un polpettone, un cacciucco, baccalà, la classica caponata toscana che è il saltato in padella di melanzane, peperoni, cipollotti. È sportivo, versatile e dinamico, gioca a calcetto con gli amici, corre e va in bici. Ma un giorno, all'improvviso... Giocando a calcetto con gli amici, un bel giorno mi sono fatto molto male alla caviglia e non ho più praticato attività sportiva di nessun tipo. Ho continuato, sì, con la mia abitudine alimentare, anche aumentata dallo stress per lo studio, quanto sto preparando la mia tesi, e quindi non mi sono preoccupato di diminuire il mio apporto calorico. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino? ma che bontà, ma che bontà. Davide è più sedentario, ma non rinuncia al piacere del cibo e nelle attese si fa sedurre da invitanti spuntini. Può capitare magari a metà mattinata di andare in un bar e prendere un tramezzino, ma specialmente quando non ho fatto colazione, oppure anche sì nel pomeriggio un pezzo di focaccia. Magari tornando a casa quando sono affamato e ancora non è pronta la cena mi faccio un panino col formaggio. Tra spuntini, caciucchi, focacce e pezzetti di formaggio, il nostro Davide deve fare i conti con la bilancia. Peso più di 100 kg, 102. Prima ero sui 95-96. Davvero? E gli alti e bassi avevano proprio dedicato, abbinato la storia di Davide a questa canzone. La sua parola chiave era infatti cambiamento. Davide, ciao! Ciao, buongiorno, ciao Nicoletta. Tu intanto devo dire sei cambiato perché sei diventato dot, ti sei anche laureato nel frattempo. Sono cambiato nel corpo e nell'anima, diciamo. Che soddisfazione! Sì, sì, sì, devo dire di sì, una bella soddisfazione. Senti, a bilancia quanto lago che cosa segna? Segna 14 kg in meno e mi comunica una ottima soddisfazione anch'essa. Dottor Ongaro, 14 kg. Davide è un ragazzo giovane, ha riattivato il suo metabolismo, si sarà probabilmente rimesso anche a fare dell'attività fisica e quindi io presuppongo che sia una perdita di tessuto adiposo e non di massa magra, non di massa muscolare, quindi assolutamente positiva. Dottoressa Reverso, qua ci vuole veramente quasi un regalo. È stato bravissimo, ma poi soprattutto se lui si sente meglio, non solo fisicamente ma anche psicologicamente, sei molto più motivato, più entusiasta. Anche perché la dottoressa Reverso ha dovuto preparare delle ricette e competere con la nonna di Davide. Davide, come se l'è cavata? È una competizione dura, ma devo dire che se l'è cavata molto molto bene, sì sì. Ma è riuscita, tua nonna ha preparato qualche ricettina della dottoressa Reverso o magari sotto banco hai passato alla dottoressa Reverso qualche ricetta del caciucco, della caponata, quella con le melanzane e il cipollotto? È stato un buon connubio in cui mia madre e mia nonna si sono piacevolmente dilettate nelle ricette della dottoressa Reverso, che devo dire erano veramente buone. E non facevano fare troppi sacrifici. Dato che sei stato bravissimo, io vorrei proporti il nostro quizettone, anzi un mega quiz, perché ti facciamo entrare in una sala, ti mettiamo le cuffie e proprio come prendendo spunto dal famoso lascia raddoppia, tu non raddoppierai nulla né lascerai nulla, però sottoponiti al nostro quizettone, ci stai? Ci sto, speriamo bene. Allora, Davide, preparati, fai un po' di stretching, ripassa un po' i fondamenti di Mangia con me. Essere e benessere. A Mangia con me è tornato Davide e Mangia con me ritorna per voi. Se volete partecipare andate sul nostro sito www.radio24.it e compilate il questionario. Potreste essere voi il prossimo partecipante di Mangia con me, essere seguito dai nostri esperti, il dottor Ongaro, la dottoressa Reverso, a cui si aggiunge quest'anno in questa nuova edizione il professor Tirelli, che si occuperà di allenare il vostro fisico e la vostra mente, essere selezionati e essere seguiti per 8 settimane per un cambiamento che ha caratterizzato un po' il percorso di Davide, il nostro primo e più giovane concorrente di Mangia con me, che adesso noi sfidiamo con il nostro quizzettone. Davide, sei pronto con le cuffie? Prontissimo. Vai. Meglio le noci o lo yogurt? Le noci. Ci sono grassi che fanno bene o fanno tutti male? No, assolutamente, ci sono grassi che fanno molto bene. Cosa manca ai carboidrati bianchi raffinati, che invece è fondamentale per il nostro organismo? Le fibre. Cos'hanno in comune cioccolata fondente, tè verde, caffè e frutti di bosco? Spero di non sbagliare, ma mi pare di ricordare che rallentino il nostro metabolismo e quindi siano ottime, specialmente alla sera. È più importante la frutta o la verdura? Credo siano ugualmente importanti, però tra i due io sceglierei la verdura. Dottor Ongaro, Allora, premesso che Davide è un caso di successo ed è stato bravissimo per questo, ed è anche stato bravissimo a rispondere, solo due piccole precisazioni. La cosa che hanno in comune il cioccolato, il tè verde, il caffè e i frutti di bosco sono gli antiossidanti, sono tutti alimenti molto ricchi di antiossidanti e quindi ci aiutano a combattere i radicali liberi e quindi a rallentare un po' il processo dell'invecchiamento. E certamente tra la frutta e la verdura direi che la regina è la verdura per tanti motivi, non da ultimo il fatto che comunque ha meno zuccheri della frutta. Però Davide è stato bravissimo. È veramente il nostro fiore all'occhiello. Davide, prima di salutarti, dimmi la verità. Hai in qualche modo contagiato nel tuo cambiamento anche la tua famiglia? Sì, devo dire di sì, soprattutto mia madre è quella che maggiormente mi ha seguito e che sta continuando a seguirmi, soprattutto ci stiamo appassionando all'attuale scienza della nutrigenomica grazie anche alle indicazioni contenute nel libro del professor Ongaro. Allora, perché è un invito che faccio agli ascoltatori, insieme al dottor Ongaro e alla dottoressa Reverso vorremmo anche arrivare nelle vostre famiglie proprio attraverso uno di voi, quindi come è successo a Davide, iscrivete uno dei vostri familiari al nostro progetto di Mangia con me e noi proveremo a prenderci cura della famiglia in toto. Dottor Ongaro, mi sto allargando troppo? No, assolutamente, anzi credo che sia proprio una caratteristica di questo tipo di intervento, cioè non parlando di una semplice dieta ma di un cambiamento di stile alimentare, l'obiettivo dovrebbe essere proprio quello di coinvolgere l'intera famiglia rendendo poi il percorso più facile ovviamente a tutti, soprattutto a chi cucina. Davide, tu torni però a trovarci, anzi resta volentieri. Mi raccomando, contiamo su di te. Grazie. Grazie a Davide, complimenti e io andrei alla nostra prossima partecipante, ex partecipante, che ha recuperato benissimo. Si chiama Valentina, andiamo a sentire. Valentina, 40 anni, è architetto e vive a Roma. È solare, ottimista e paziente. La passione è tutta per suo figlio Aurelio, di 3 anni. È una donna molto attiva, ma tra hobby e sport preferisce puntare sugli hobby. Piacciono molto i libri, insomma, di narrativa, romanzi, leggo molto. Questa è una cosa che mi piace davvero tanto. Non amo fare la spesa, ma amo cucinare. Mi piace curare le piante, anche se ho un piccolo balcone, però mi piacerebbe avere un giardino più grande e dedicarmi alle piante. Mamma, mamma, sono tanto emozionato per la gita di domani. Mi piacciono tanto le grandi barche. Trascorre tanto tempo con il suo piccolo grande amore. Per lui inventa giochi e passatempi. Insieme si divertono un mondo. Adesso siamo all'aperto, se il tempo ce lo consente. Se siamo in casa dipingiamo, coloriamo, cerco di farlo giocare con i colori o anche cucinare. Delle volte mi organizzo per fare dei biscotti o dei dolci per farlo giocare insieme a me con queste cose. Valentina è una mamma davvero in gamba, che si destreggia con abilità tra squadre, matite e righelli. Negli ultimi tempi, però, ha capito che è arrivato il momento di fare un progetto anche per sé, di diventare architetto di se stessa. Non mi sento di essere ritornata come prima e vorrei questo, cioè vorrei di avere la stessa sensazione, lo stesso benessere, comunque sentirmi più leggera, sentirmi meno gonfia, sentirmi come mi sentivo prima, quindi ecco, anche più magra, quindi più leggera, riuscire a fare le cose con un po' più di agilità, cosa che invece non riesco a fare, forse legata a questi chili occhio in più. Beh, vorrei recuperare me stessa come ero prima. Sì. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache. State ascoltando Gli Alti e Bassi, che avevano scelto questa canzone al profilo di Valentina. Noi chiudiamo in bellezza perché chiudiamo proprio con lei. Valentina, benvenuta. Buongiorno. Hai recuperato? Sì, io devo confessare che ogni tanto mi perdo senza di voi. Ho bisogno di un E noi siamo tornati, Valentina. Questa, guarda, è un grande complimento. E devo dire che Mangio con me riparte perché molti di voi, e io vi ringrazio, ci hanno scritto proprio dicendo: ci stiamo perdendo, tornate. E noi siamo tornate. E tu ti senti con un pochino più come quella di prima? Perché Mangia con me serve anche a recuperare il benessere. Sì, e infatti è quello il problema, che essendomi sentita meglio voglio continuare a sentirmi bene e non perdermi più, perché potrebbe diventare pericoloso. Dottor Ongaro. Io sono molto contento perché abbiamo 3 casi recuperati dall'edizione precedente con situazioni differenti, però tutte e 3 ci danno la sensazione che quello che stiamo facendo ha una logica, un senso. E anche il fatto che Valentina dica senza di voi vi perdo è una cosa molto bella e anche tipica di questo lavoro, nel senso che questo aiuto al cambiamento di stile di vita richiede una certa presenza, occorre dare degli stimoli di tanto in tanto per rimanere sulla strada giusta. Infatti io vorrei che la pagina di Mangia con me, è una pagina molto visitata, diventasse proprio un incontro per le persone che decidono di cambiare e di utilizzare l'alimentazione come strada per stare bene. Dottoressa Reverso, dottor Ongaro, Valentina, noi ci ritroviamo il prossimo giovedì, grazie per essere stati con noi, noi torneremo, intanto voi compilate il questionario, mi raccomando. Valentina, tu seguici perché anche per te ci saranno sempre preziosi consigli. Compilate il questionario su www.radio24.it e potreste essere il prossimo partecipante di Mangia con me. Buonissima giornata. Adesso io vado a mangiare davvero.